Allora, siamo in collegamento con Pinar Selek, scrittrice e sociologa turca, in questo momento oggetto di una lunga persecuzione giudiziaria per la sua attività a sostegno della popolazione curda e in generale delle minoranze in Turchia e della marginalizzazione delle stesse. Raccontaci intanto la tua vicenda giudiziaria, dato che il 9 febbraio prossimo ci sarà l'udienza per la tua libertà. Alors, je suis une sociologue et une activiste antimilitariste, féministe, etc. Et j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup de livres. Et au 1980, Sono una sociologa attivista femminista e antimilitarista. Nel 1998 la polizia mi ha arrestato mentre partecipavo alle mobilitazioni accanto al popolo curdo. Avevo parlato con membri del movimento curdo in Turchia e ne avevo fatto una storia orale. Mi avevano fatto un processo per chiedermi i nomi, mi avevano poi arrestato, non volevano che si facesse un'inchiesta sul movimento. Io quei nomi non li ho mai dati, sono una sociologa e quindi devo capire i problemi sociali. Così mi hanno messo in prigione dicendo che aiutavo il movimento curdo. des personnes que j'ai parlé, ils avaient écrit Pensavo di XYZ, uscire di prigione etc. subito, ma dopo un mese e mezzo ho visto in televisione che mi hanno accusato di aver messo una bomba nel bazar di Istanbul. Nella dichiarazione di polizia dicevano che c'era uno scoppio, ma avevano allo stesso tempo la dichiarazione di un giovane che aveva detto di aver messo la bomba insieme a Pinar Selek. È iniziato così un secondo processo per questa questione, c'è stato un grande movimento di sostegno, non ero sola, molti scrittori e intellettuali si sono schierati al mio fianco e tutto il movimento femminista. 98, en me disant que Nella prima udienza questo stesso giovane ha ammesso di essere stato torturato e che lo avevano costretto ad accusarmi. Poi il tribunale ha voluto una perizia esterna per decidere se l'incendio era un attacco bomba o meno e tutti sono stati d'accordo nel dire che era un incendio casuale. Allora il tribunale mi ha liberato, ma la polizia aveva altre accuse su di me. Una volta uscita ho ripreso tutte le mie attività nel movimento antimilitarista, nel movimento femminista, con ancora più forza. La mia battaglia era diventata un simbolo. Prima un simbolo di giustizia, poi di resistenza e di libertà. Ero diventata molto famosa, i miei libri venivano pubblicati e le mie lezioni pure. Nel 2006 la Cassazione però ha chiesto per me la prigione a vita, ma il Tribunale di nuovo nel 2008 mi ha riconosciuto innocente una seconda volta. Nel 2009 poi la Cassazione ha ricassato di nuovo il processo, ora il mio dossier è tornato al Tribunale e la sentenza sarà il 9 febbraio. Tutti quanti ci aspettiamo una soluzione. Alors, tout le monde attend que si ils vont me réacquitter ou bien ils vont obéir à la décision de la cassation. Est-ce que tu Oui. devras Dovrai rendre rientrare in public Turchia per il ce processo? sera un procès en contumace? Je ne sais pas, mais Non so se devo, i miei avvocati sono su mandato, ma io non voglio andarci perché non voglio più vedere questo film. Ora che sono in Germania, scrivo, produco, sono molto attiva. Ma il giorno del processo ci sarà una grande campagna lì, ci saranno molti personaggi presenti, ci saranno dei parlamentari europei e osservatori che verificheranno lo svolgimento del processo. Vi saranno anche parlamentari tedeschi, rappresentanti della mia casa editrice, avvocati delle associazioni per la libertà e rappresentanti dei comitati di solidarietà con me. Ci saranno poi anche dei rappresentanti delle associazioni di sociologi, ricercatori senza frontiere. Ci saranno insomma molte persone da tutta Europa, persone che pensano sia importante andare perché è un processo simbolico per la Turchia, non vogliono colpire solo me, ma tutte e tutti quelli che fanno attività politica in Turchia. Pas seulement moi, tous mes idées, tous mes activismes, etc. Alors, ce sera une rencontre très symbolique, je crois, en Turquie, 9 février. Tu parlais du Oui. travail que tu as fait avec les communautés Parlavi del lavoro che facevi con i curdi e sappiamo che hai lavorato molto con le donne, in particolare hai lavorato sulla marginalizzazione dei soggetti all'interno della società turca. Cosa vuol dire fare politica in una società tanto complessa come quella turca? On entend souvent parler des rapports entre le gouvernement et les citoyens, mais difficilement, à part ton cas, on arrive à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, non, de s'activer dans une société si complexe comme celle turque. La Turchia c'est un pays plein La Turchia è piena di conflitti e contraddizioni e soprattutto di oppressione nei confronti delle donne. E penso che mi abbiano scelto proprio perché sono una donna. C'è un'oppressione molto forte, ma c'è un'altrettanto forte resistenza in Turchia. Da 25 anni a questa parte il movimento femminista è il secondo movimento più forte e dinamico dopo quello curdo. Noi possiamo influenzare i partiti, la politica, siamo sempre per strada, siamo molto attive, perciò è importante che le donne sappiano che hanno delle organizzazioni molto forti, che spaventano anche il potere. Ed è per questo che le prigioni sono sempre piene, piene per ragioni politiche, perché tutto quello che ci viene vietato noi lo facciamo. Per la forza di questo movimento femminista in Turchia sono molto ottimista. C'è una rivoluzione sociale in corso, anche se i problemi restano, violenze, discriminazione, però queste violenze e queste discriminazioni fanno da specchio diversi modi di vita ed esperienze che ancora oggi riescono a resistere. C'è una grande solidarietà tra le donne e penso che abbiamo cambiato la società anche se il nostro cammino è molto lungo, ma abbiamo la forza per continuare. La società, ma il nostro cammino è molto lungo e continuare, ma abbiamo la forza per continuare.